Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Giuseppe Battagliola e il gruppo Linea Verde. Prodotti di quarta gamma tra storia e innovazione. Di Alessandra Tedesco e Adriano Palazzolo. Oggi vi raccontiamo la storia di un'azienda leader nel settore della quarta gamma e che ogni anno produce 168 milioni di buste e ciotole di frutta, verdura e in generale ortaggi freschi confezionati e pronti per il consumo. Si chiama La Linea Verde e nasce a Manerbio, un comune di 13.000 abitanti nel cuore della Bassa Bresciana, in Lombardia, a metà strada tra Brescia e Cremona. Il gruppo nasce formalmente nel 1991 per volontà dei fratelli Giuseppe e Domenico Battagliola ed è conosciuto principalmente per il marchio Dimmi di Sì, presente sugli scaffali delle maggiori catene di grande distribuzione. L'azienda però ha radici lontane, che partono nei primi anni 70 e che affondano in un solo ettaro di terreno, come ci racconta Giuseppe Battagliola, presidente del gruppo. Mio papà faceva l'imprenditore agricolo, ma faceva parte di quelle piccolissime aziende che piano piano sono sparite. Lui era tenace, non voleva assolutamente smettere, ed è per questo che lui aveva già cominciato a fare insalata, perché l'insalata, essendo una cultura intensiva con piccole superfici, permetteva alla famiglia di sopravvivere. Dopo qualche anno sono arrivato io, ma molto alla svelta, perché purtroppo io odiavo studiare e mentre invece mi piaceva tantissimo lavorare. Vuol dire che a 15 anni io ho cominciato a lavorare nella microscopica azienda di famiglia. E mio papà aveva un ettaro, perciò era poco più di un orto, ma con tanta fatica, all'inizio affittando qualche pezzettino di terra e poi pian piano crescendo, comprando un pezzo, poi un altro pezzo. Avevamo un posteggio al mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Brescia, mio papà andava a vendere, io rimanevo a lavorare con le persone. E così è passata la prima parte della mia vita dove io ho fatto l'agricoltore. Dopo qualche anno, nella piccola azienda di famiglia arriva anche il fratello di Giuseppe, Domenico, oggi vicepresidente del gruppo La Linea Verde. I due, insieme ai genitori Giovanni e Orsolina, lavorano duramente per ampliare i terreni, arrivando a coltivare 13 ettari. L'ambizione di Giuseppe, però, lo porta a pensare di non voler passare tutta la vita a zappare la terra e a voler fare qualcosa di diverso. Fino a quando un giorno suo padre torna dal mercato con un racconto. Successe che un giorno mio papà arriva a casa dal mercato e mi racconta, affascinandomi, che un suo collega aveva inventato una macchina per tagliare il cicorino. La teneva nascosta, segreto assoluto, e non la faceva vedere a nessuno. Questo cicorino lo lavava, lo metteva nei sacchetti e lo vendeva già pronto. E questa era una rivoluzione assoluta, perché il cicorino si vendeva a mazzetti, per cui darlo non solo già lavato ma tagliato finemente era un servizio. Senza saperlo stava cominciando un'epoca anche nell'ortofrutta di non vendere più solo prodotto ma servizio. Questo per me fu l'uovo di Colombo, perché non mi sembrava vero riuscire a trovare un modo per dare più valore aggiunto al nostro prodotto. Ed è così che dopo una lunghissima giornata di lavoro mi sono messo nel garage. Ho comprato una affettatrice vecchissima, perché di soldi non se ne potevano spendere, perciò senza spendere niente io ho comprato una saldatrice, ho imparato a saldare, ho modificato questa affettatrice, sono riuscito finalmente a tagliare sto cicorino fine, lo lavavamo in un mastello, ho preso una lavatrice usata carica dall'alto e col cestello della lavatrice asciugavamo il prodotto. Ho fatto fare dei sacchetti azienda agricola Battagliola Giovanni e figli, una saldatrice manuale da casa, ed è così che abbiamo iniziato, ancora come azienda agricola, in questo caso non era nata la società, a fare quello che oggi si chiama quarta gamma, cioè insalate pronte, insalate in busta, ma che noi non sapevamo sinceramente allora di cominciare un'avventura completamente diversa. Questa sperimentazione molto artigianale nel garage di casa avviene alla fine degli anni Ottanta e anno dopo anno, da attività complementare, si trasforma nell'attività prevalente dell'azienda agricola. Si aggiungono altri tipi di insalate e si comprano altri macchinari. La domanda continua a crescere e diventa necessario, per la famiglia Battagliola, fare una scelta importante. Ma a questo punto abbiamo cominciato a avere come clienti dei supermercati. I supermercati hanno come esigenza assoluta quella di avere 12 mesi il prodotto. L'azienda agricola non può produrre in inverno, l'azienda agricola non può comprare più del 50% di ciò che produce. Perciò è stata, come dire, una scelta obbligata quella di fare una società che invece potesse comprare tutto come voleva. A questo punto l'azienda agricola è rimasta pura come produzione ed è nata la linea verde che è nata come SNC, SRL e poi è diventata azienda agricola SPA. L'azienda diventa fornitore esclusivo di una grande catena di supermercati fino a quando nel 2004 il rapporto commerciale si chiude. Un momento difficile che è stato trasformato in un'opportunità di crescita grazie all'arrivo di figure manageriali che hanno aiutato la famiglia negli investimenti e nell'innovazione. Siamo nel 2006. Siamo nati come Copecar, cioè come produttori a marca del distributore. 10 anni fa abbiamo deciso di creare un nostro marchio. Il nostro marchio è Dimmi di Sì e abbiamo cominciato a mettere l'innovazione sotto questo marchio. Perciò, pur essendo ancora oggi il nostro core business l'insalata, ma noi facciamo prodotti a più alto valore aggiunto, che sono le zuppe, i frullati, le spremute, i contorni, i tramezzini. E quello che mi piace molto dire è che la stessa filosofia dell'insalata, cioè noi la chiamiamo fresco da fresco, ogni giorno dalle nostre aziende agricole arriva prodotto fresco e noi facciamo prodotto fresco. Tutti questi prodotti a più alto valore aggiunto hanno la medesima filosofia, senza conservanti, prodotto fresco ogni giorno, che noi chiamiamo come fatti in casa, perché è la verità. Questa è stata una svolta. Una svolta, quella del marchio Dimmi di Sì, che oggi vale il 30% dell'intero fatturato del gruppo e che viene venduto anche all'estero. Ed è proprio l'export un altro settore in cui l'azienda ha scommesso, soprattutto in virtù del fatto che il prodotto fresco, lavato, ha solo 7 giorni di vita. Noi abbiamo 2 tipi di export. Il prodotto quarta gamma, perciò insalate pronte, lavate, e il prodotto prima gamma. Prima gamma vuol dire sia che sia in casse o in vassoi ma non lavato. Questa seconda famiglia non ha la data di scadenza, perciò ha una facilità, maggior facilità a essere esportato. Ecco, con la prima gamma noi andiamo praticamente in tutti i paesi europei, servendo anche dei nostri competitor. Con il prodotto lavato abbiamo un'azienda in Spagna che produce per la Spagna e dall'Italia esportiamo in Svizzera, in Austria, in Polonia, in Belgio e dobbiamo iniziare a giorni in Francia. Nel 2015 la linea verde ha chiuso il bilancio con un fatturato di 210 milioni di euro. Oggi nelle aziende del gruppo lavorano oltre 1000 dipendenti, distribuiti in 5 siti produttivi, di cui uno anche in Spagna. Numeri importanti per una crescita che però ha subito i colpi della grande crisi economica del 2008. Anche noi non abbiamo un vaccino alla crisi, l'abbiamo subita fortissimamente, grazie a Dio non come volumi, perché essendo molto propositivi e innovando abbiamo mantenuto i volumi e questo è molto positivo per l'azienda, ma soprattutto per i nostri lavoratori. Noi non abbiamo mai licenziato nessuno, grazie a Dio. Ma invece il grosso problema sono stati i margini, perché la competitività di un mercato che non cresce ci ha messo in grosse difficoltà. Come abbiamo reagito? Come l'altra volta, cioè quando abbiamo perso il grosso cliente, investendo, perché il diktat era recuperare competitività. Il consumatore è cambiato, è un consumatore che segue di più le offerte, che è meno fedele alla catena, meno fedele alla marca e cerca il prezzo, per cui noi aziende abbiamo dovuto adattarci. Solo che è facile dirlo, un po' meno facile farlo, ci è voluto un po', mentre si faceva ci abbiamo lasciato parecchie risorse, ma oggi possiamo dire che con gli investimenti fatti soprattutto in tecnologie atte a recuperare competitività nei flussi, insomma abbiamo ribaltato un pochino tutte le procedure aziendali, oggi abbiamo recuperato competitività, tant'è che l'anno scorso abbiamo chiuso un bilancio con soddisfazione e con una crescita, mi vergogno un po' a dirlo, del 17%. Superare la crisi e imporsi sul mercato è stato possibile solo grazie a grandi investimenti in tecnologie e innovazione, che, come ci racconta Giuseppe Battagliola, voce narrante di questa storia, sono al centro dei progetti futuri del gruppo. Noi siamo affascinati dal mondo, chiamiamolo piatti pronti, no? Per capirci, però sempre sotto quella parolina che pensiamo di aver inventato noi, perché non c'era una definizione, fresco da fresco, perché la parola fresco si può interpretare un po' come si vuole, no? Noi non inventiamo prodotti, ma un nuovo modo di farli, perciò questo filone pensiamo, noi ci crediamo tantissimo, ma non è tanto che ci crediamo solo noi. Tutti sanno che la sensibilità del consumatore verso il mangiar sano in generale, lasciamo stare che sia biologico piuttosto che vegetariano o vegano, ma in genere la sensibilità di mangiare prodotti freschi e sani è crescente, per cui ci sentiamo abbastanza centrati non sulle nostre idee, ma su quelle del consumatore. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.